Ageri, ma tu mi sai pulita, basta no! La bastola della casa ipoteca, ora è tutta migliorata! Sigillata, non la solitata, e senza la puntata, ma non la la pensata, tutto è fottuto vado, ma solo io lo so, lui tornerà, e la faccia dell'enaro lui lo brucerà! E da quello con suo mantello nero che cavalca con le vie, la casa con le vie, lo so, ma chi ne segue? Se la casa di reale non lo si può toccare, se per te la spaghetta, è creato con la mente! Oggi è tornato un pizzaio di giudiziero, bastardo! Ma lui c'era, due bagnarabiglieri, incazzati tutti i neri! Forza lei! Viene di faccio, ma sul coso del tuo luccio, quasi con le porte in cuccia di una noce! E togliere la mia morte! Ma da fatto, fatto, fatto, in così ci lì delle foto! Ma la batta la sistema me l'hai fatto! Ed eccolo il nostro mantello nero che cavalca il suo destino! Attraverso le mie!